Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia in Marco, capitolo 16, leggerò alcuni versetti, leggerò dal versetto 9 all'ultimo versetto. Così è scritto. Quindi Marco capitolo 16 dal versetto 9. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarla a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi, e questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio: cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Dunque, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai suoi discepoli. Qua, quando apparve agli 11 apostoli, i quali erano a tavola, la scrittura dice che li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. Infatti abbiamo visto che non credettero a Maria Maddalena, ma Gesù apparve a Maria Maddalena, lei andò a riferire, diciamo che aveva veduto Gesù, andò a riferire a coloro che erano stati con lui, però Non le credettero. Dunque ci fu una riprensione che si presero innanzitutto da Gesù per la loro incredulità e durezza di cuore. E poi Gesù disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, notate questo ordine così chiaro che Gesù diede loro, di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi, innanzitutto, dovevano andare per tutto il mondo. A fare che cosa? A fondare onlus, a fondare associazioni, a organizzazioni? No, perché oggi pare che Gesù abbia dato l'ordine di creare onlus, organizzazioni e denominazioni, cose che veramente non sono assolutamente nel volere di Dio verso la sua Chiesa. Gesù disse agli 11 di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. E non è che lo dovevano predicare solamente ad alcuni, no, no, lo dovevano predicare ad ogni creatura, quindi a tutti. Ora, predicare l'Evangelo. Intanto dovevano predicare. Ma non un messaggio qualsiasi. Dovevano predicare l'Evangelo. Ora, è evidente che gli apostoli, in questo caso gli 11, sapevano cosa fosse l'Evangelo. Infatti è scritto: predicate l'Evangelo. Quindi gli undici sapevano cosa Gesù intendesse con il termine Evangelo, lo sapevano benissimo. Ora, questo messaggio, che è il messaggio dell'Evangelo, ancora oggi va predicato per tutto il mondo ad ogni creatura. Ora, per essere predicato, deve essere conosciuto prima. Non si può predicare qualcosa che non si conosce. Gli apostoli sapevano cosa fosse l'Evangelo e lo predicavano. Quindi, per predicare l'Evangelo bisogna conoscere l'Evangelo, ma poi bisogna essere anche mandati dal Signore. Infatti l'Apostolo Paolo dice ai santi di Roma queste parole: come predicheranno se non sono mandati? Mandati da chi? Da un'organizzazione? Da un'associazione? No, mandati da Dio. Infatti l'Apostolo Paolo fu mandato. Peraltro il termine apostolo significa proprio mandato. Infatti gli apostoli furono mandati dal Signore a predicare. Quindi come predicheranno se non sono mandati? Bisogna essere mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. E gli undici furono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. Ora, l'Evangelo in che cosa consiste? Che cos'è l'Evangelo? Ora, il termine Evangelo significa buona notizia. Ma non è che è una buona notizia. Come se, appunto, ce ne fossero tante di buone notizie da predicare. No! È la buona notizia. Quindi bisogna stare molto attenti quando si sente menzionare la parola Evangelo, perché la parola Evangelo significa buona notizia o buona novella, ed è una sola la buona novella da annunziare. Non sono due. Non sono tre, non sono quattro e così via, no, è una. L'Evangelo è unico. Ora, qual è l'Evangelo? Qual è la buona novella? Lo leggiamo in Atti degli Apostoli. Ascoltate che cosa dice Luca, il medico di letto, perché noi sappiamo che l'autore di questo libro è Luca, il medico di letto, peraltro collaboratore dell'Apostolo Paolo. Al capitolo 5, degli Atti degli Apostoli, al versetto 42, viene detto quanto segue. Anzi, iniziamo dal 40. Ed essi furono del suo parere, cioè del parere di Gamaliele, e chiamati gli Apostoli, li batterono. E ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco in che cos'è l'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. D'altronde, questa buona novella, cioè l'Evangelo, come dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, il Dio l'aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Infatti, nelle sacre scritture è, diciamo, preannunziata la venuta del Cristo. Gli antichi profeti, in altre parole, parlarono da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo, annunziando la venuta del Cristo o Messia, cioè dell'unto di Dio. ai giorni, quando Gesù nacque, quando diciamo Gesù visse sulla terra, c'erano coloro, infatti, che aspettavano la venuta del Messia e credettero in Lui. Ora, non tutti però coloro che aspettavano la venuta del Messia poi riconobbero in Gesù il Messia, ma una parte, un residuo, credette che Lui era il Cristo o Messia. Lo credettero. Dunque, quando Gesù comandò ai suoi 11 di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, disse loro di andare ad annunziare che Lui, Gesù di Nazaret, è il Cristo, che in Lui si sono adempiute le sacre scritture. Ora, il Cristo che doveva venire, doveva essere ucciso e doveva risuscitare dai morti. Questo era quello che era stato preannunziato da Dio. Infatti, leggiamo in Isaia, al capitolo 53, queste sono parole che appunto riguardano il Cristo o Messia, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco dunque che il Dio aveva già innanzi fatto sapere che il suo unto o il suo Messia sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, quindi doveva essere ucciso. Ma poi non solo. Il Dio, per mezzo di Davide, aveva fatto sapere, aveva fatto preannunziare, che il Cristo sarebbe risuscitato dai morti. Infatti, Davide in un salmo disse, per lo Spirito, parlando del Cristo, anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Qui Davide, antivedendola, parlò della risurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Come vedete dunque, il Signore Dio aveva fatto preannunziare ciò che doveva accadere al suo Cristo. Allora, in Gesù si sono adempiute le scritture, ciò che Dio praticamente aveva innanzi determinato che dovesse accadere. Infatti, egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Questo è scritto in 1 Corinzi, al capitolo 15, dove l'Apostolo Paolo ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che lui gli aveva annunziato, perché voi sapete che fu Paolo ad annunziare l'Evangelo ai Corinti. E voi sapete infatti che lui dirà che era stato lui a generarli in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Perché la rigenerazione sopraggiunge quando l'uomo crede nella buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo. Dunque, quando qui in questo capitolo, in questa parte dell'epistola, perché inizialmente non c'erano i capitoli, le epistole non erano suddivise in capitoli, adesso diciamo capitolo 15, capitolo 14, però vi ricordo che inizialmente le epistole non erano suddivise in capitoli. Ora qui l'Apostolo Paolo, dunque, quando gli ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato, cosa gli dice? Gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato, che poi era l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, perché Paolo l'Evangelo che annunziava non l'aveva appreso, ricevuto, imparato da un uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, lui lo dirà ai santi della Galazia. Allora, che cosa gli dice? Prima di tutto, come dice, vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, poi dice, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Allora, questo è l'Evangelo. Quando Paolo dice che predicava l'Evangelo, era questo l'Evangelo che predicava. Lo predicò dovunque lui si recò per volere di Dio. Quindi non è che lo predicò solo a Corinto, lo predicò anche a Tessalonica, lo predicò a Filippi, lo predicò ad Atene. Lo predicò ad Atene. Attenzione, perché voi sapete che Paolo è scritto al capitolo 17, dice così: egli dunque ragionava nella sinagoga, qui ad Atene, egli dunque ragionava nella sinagoga con i giudei e con le persone pie sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E di che cosa ragionava l'apostolo Paolo? Di che cosa ragionava? Annunziava l'Evangelo. Infatti poi cosa c'è scritto? E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, alcuni dicevano che vuol dire questo cianciatore e altri egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione. Vedete, Paolo annunziava l'Evangelo, lo annunziò anche ad Atene. Per gli ignoranti e gli insensati, voglio dire anche questo. Nell'Areopago, dove l'Apostolo Paolo fu condotto per parlare, voglio solo ricordare, no, perché ci sono persone che non ci arrivano, sapete quando si dice non ci arrivano, ma non ci arrivano perché sono persone insensate. Cioè, voglio ricordare che l'Apostolo Paolo fu interrotto, stava per proseguire. Ma quando lui menzionò la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Non è che lui terminò, no, di sua volontà, no, praticamente fu interrotto, perché alcuni si sono messi a dire delle cose strane, cioè non riescono nemmeno a capire quello che è scritto così chiaramente. Comunque, l'Apostolo Paolo anche ad Atene annunziò l'Evangelo. Vi stavo dicendo che questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava nelle città dove il Signore lo chiamava a predicare. Questo Evangelo lui lo predicava sia ai giudei che ai gentili, ai greci. Perché lui credeva e lo diceva che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, ecco in cosa consiste l'Evangelo: nell'annunzio che ciò che il Dio aveva preannunziato per bocca dei suoi profeti si è adempiuto in Gesù di Nazaret. Ecco perché gli apostoli andarono per tutto il mondo a predicare la buona novella che Gesù era il Cristo. Ma vi voglio fare riflettere, voglio farvi riflettere anche, diciamo, in questa maniera. Allora, quando Saulo fu visitato da Dio sulla via di Damasco e convertito, che cosa c'è scritto dopo che lui, diciamo, recuperò la vista? Sapete che il Signore gli mandò Anania a imporgli le mani. E subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliolo di Dio. E poi c'è scritto ancora più in là: ma Saulo vie più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Eh sì, perché questo era praticamente il messaggio che a Paolo premeva di annunziare, che Gesù era il Cristo. Ma se voi leggete Matteo, Marco, Luca, Giovanni, se leggete il libro degli Atti degli Apostoli, voi vi accorgerete che effettivamente l'Evangelo, la buona novella, è che Gesù è il Cristo che doveva venire e che in lui appunto, quindi si sono adempiute le scritture, ecco perché poi l'Apostolo Paolo, ricordando l'Evangelo ai Corinti, dirà quelle cose. Dunque, l'Evangelo è questo. E badate bene che questo è l'Evangelo da predicare, non è che ce n'è un altro che si può predicare, eh? Cioè, non è che noi abbiamo, che ti posso dire io, qualche altra opzione, Come dire, il Signore ci ha lasciato 3-4 Vangeli e noi scegliamo quello che ci pare a noi, no, fratelli nel Signore? Non è così, non è così. Bisogna che sia annunziato l'Evangelo che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. E badate bene che per quelli che annunziano un Vangelo diverso da questo, c'è l'anatema. Eh sì, perché l'Evangelo è l'Evangelo di Dio. L'Evangelo non è l'Evangelo di un uomo, è l'Evangelo di Dio, e così è chiamato. Allora, chi è che... Allora, vi faccio questa domanda. Ma l'Evangelo da chi procede? Chi è colui che lo ha ideato, lo ha pensato, lo ha tradotto in atto? Chi è? Come si chiama? È Dio, Yahweh. È Lui che ha fatto preannunziare quelle cose del Cristo e che poi ha fatto sì che si adempissero. È l'Evangelo di Dio questo, non è l'Evangelo di una denominazione, di un'associazione, di una onlus. No, no, questo è l'Evangelo di Dio. Allora, vi stavo dicendo che per chi annunzia un Vangelo diverso c'è l'anatema, ossia chi annuncia un Vangelo diverso è anatema, è maledetto. Infatti questo l'Apostolo Paolo l'ha ricordato ai santi della Galazia. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Cioè, quando anche noi, dice l'Apostolo Paolo, quando anche un angelo dal cielo, ma vi rendete conto? Cioè, della portata di queste parole, del significato di queste parole, questa dimostrazione che l'Evangelo è la parola di Dio e non si può sostituire la parola di Dio con un'altra parola e nemmeno va adulterata, non va contorta, non bisogna falsare il senso di quello che è scritto. Attenzione! Quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio, ricordatevi che la parola di Dio è sacra, guai a coloro che l'adulterano, guai a coloro che fanno di testa loro, che pensano di poter predicare quello che vogliono loro. No, fratelli nel Signore, no, no. Qui c'è l'anatema, anatema significa maledetto, Quindi, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Non abbiate alcuna paura a dichiarare anatema chi vi annuncia un Vangelo diverso da quello che predicava l'Apostolo Paolo. Appena sentite che qualcuno vi dice l'Evangelo è Gesù ti ama, anatema! O vi dice l'Evangelo è Cristo la risposta, anatema! Chi annuncia questo? Oh, l'Evangelo è Dio, ha un piano per te, vuole risolvere i problemi della tua vita. Anatema! Bisogna dichiararlo, gridarlo. Non ci interessa proprio niente a noi di quello che diranno gli altri, ma ci chiamino fanatici, integralisti, terroristi, non ci interessa. Noi siamo discepoli di colui che è il Cristo. Io sono stato chiamato da Dio e mandato da Dio a predicare l'Evangelo. L'Evangelo di Dio. Io mi ricordo, appunto, mentre dormivo quel giorno del giugno 1990, quando il Signore mi trasportò, diciamo, mediante il suo spirito, mi prese, mi afferrò e mi sollevò tra terra e cielo. Quando io fui in alto, dissi, Signore, dove vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo? E il Signore, appunto, voi sapete, mi disse, va nel Lazio. Mi apparve appunto un cavallo, un cavallo poderoso, col dorso blu, e aveva un viso, lo vidi in lontananza, prima che si avvicinasse a me, e aveva un, un, diciamo, la faccia, la testa era, diciamo, di un metallo, il cavallo era vivo, la testa era, diciamo, tra il rame e l'ottone, diciamo, un metallo simile, comunque era sfavillante, mi ricordo peraltro anche l'occhio che vidi, l'occhio vivo del cavallo, e su questa testa c'era scritto, sulla parte che naturalmente io riuscivo a vedere in lontananza, va nel Lazio. Quindi, chi è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo, chi è stato mandato da lui a predicare, sa cos'è l'Evangelo e lo annuncia e lo difende e non gli interessa quale sarà la reazione del mondo, non gli interessa quanti saranno che crederanno in quello che lui annuncerà, lui non guarda queste cose. Chi è stato chiamato e mandato a predicare l'Evangelo si studia di predicare l'Evangelo, sapendo poi che crederanno quelli che sono ordinati a vita eterna, sapendo che chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E chi non è da Dio non le ascolta. Io non mi sono mai preoccupato. Non mi sono mai preoccupato di quanti, sin dall'inizio, di quanti avrebbero creduto nell'Evangelo che predicavo. No, io dovevo predicare l'Evangelo, devo predicare l'Evangelo. Chi converte i cuori è il Signore. Chi apre i cuori è il Signore. Chi apre la mente è il Signore. Chi dà il ravvedimento è il Signore. Chi dà la fede è il Signore. Io sono un ambasciatore. Io devo portare il messaggio che il Signore mi ha chiamato a portare, l'Evangelo di Dio, è il suo Evangelo. E io veramente mi sento veramente graziato, io mi sento felicissimo di poter annunciare al mondo l'Evangelo e di ricordarlo alla Chiesa, anche perché sono molto contento anche quando lo ricordo alla Chiesa. Allora, l'Evangelo mediante il quale noi siamo salvati, è questo. Avendo creduto nell'Evangelo siamo stati salvati, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Avendo creduto nell'Evangelo noi siamo stati salvati e siamo tuttora salvati mediante l'Evangelo, che vi ho detto appunto qual è e che voi lo sapete. Allora, quindi l'Evangelo va predicato, va predicato ad ogni creatura. Poi Gesù che cosa ha detto? Ha detto anche queste altre parole. Allora, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dunque, dopo avere creduto, chi ha creduto deve essere battezzato, battezzato in acqua per immersione. Il battesimo è solo per immersione, non è per aspersione, non è per infusione, è solo per immersione. Specifico. Per totale immersione, perché adesso devo specificare pure, quando parlo del battesimo, devo praticamente fare quello che io all'inizio non facevo. Perché non lo facevo? Perché io davo per scontato che tutti sapessero che l'Evangelo, gli evangelici sapessero che il battesimo va amministrato per totale immersione. Mi sono accorto praticamente col passare del tempo che molte chiese, evangeliche, tra cui anche molte pentecostali, ministrano il battesimo per parziale immersione. E sì, c'è un'altra modalità, si sono inventati la modalità per parziale immersione. Eh sì, sapete, pure questo accade, ma sono tanti quelli che appunto battezzano per parziale immersione. Voi li vedete, basta che andate sui social e vedete quando avvengono i battesimi e generalmente troverete battesimi per parziale immersione. Talvolta rimane fuori la testa o mezza testa, talvolta rimangono fuori due braccia, talvolta rimane fuori una gamba, due gambe, dipende, no? Proprio, è una cosa impressionante, ma si vedono delle cose veramente assurde. E lo chiamano battesimo, loro lo chiamano battesimo quello. Ma che battesimo è? Il battesimo è immersione totale di colui che ha creduto. A me dispiace vedere queste veramente scene che poi veramente hanno anche del ridicolo. Si vedono certe scene veramente ridicole in questi battesimi. Cioè veramente si prendono cura di tutto, dell'illuminazione, della piscina. Essi prendono cura di annunziare in tutte le maniere, in tutti i modi, che ci saranno i battesimi, e poi quando arriva quel giorno sembra che sia arrivato il giorno dei giorni, è il giorno più importante della vita di colui che ha creduto, che non è vero, perché il giorno più importante è quando tu ti ravvedi e credi nell'Evangelo, perché con il battesimo non è che tu nasci di nuovo, non è che con il battesimo in acqua ti vengono rimessi i tuoi peccati, non è che vieni salvato, il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Non è che con il battesimo si diventa figlioli di Dio, perché questo un po' anche è l'idea che viene fatta, che viene un po' trasmessa, no, chi viene battezzato in acqua è già un figliolo di Dio perché ha creduto, a quelli che credono nel suo nome egli ha dato il diritto, l'autorità di diventare figlio di Dio, quindi nel momento in cui uno ha creduto è un figliolo di Dio, è purificato dai suoi peccati col sangue prezioso di Gesù, è salvato, liberato dai suoi peccati, è giustificato, ha la vita eterna. Però il battesimo è necessario, il Signore l'ha comandato, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Infatti quando uno, il credente viene battezzato, poi si sente sollevato, si sente con la coscienza a posto nei confronti di Dio. Allora, naturalmente stanno tutti attenti quel giorno, no? E poi naturalmente fanno anche la predicazione, giustamente il giorno del battesimo si fa la predicazione, no? Prima del battesimo. E generalmente la predicazione tratta, diciamo, da quei versetti biblici che trattano il battesimo, uno in particolare, il battesimo dell'eunuco, per esempio, o magari si fa riferimento anche al battesimo di Gesù, insomma, e poi naturalmente tutti, cioè il conduttore ci tiene a dire, noi battezziamo solo gli adulti, non battezziamo i bambini, perché i bambini non hanno la capacità di credere, ma questa è una cosa che io sentivo ancora. Io questa cosa l'avevo imparata ancora quando non ero convertito, io queste cose le sentivo già quando ero nelle tenebre, mentre ero ancora nelle tenebre, perché io venivo portato ai battesimi, i miei genitori, essendo dei credenti, mi portavano ai battesimi, me ne ricordo diversi, e io queste cose le sentivo dire ai pastori che in quel frangente, prima del battesimo, no, facevano un breve studio o una predicazione sul battesimo, noi non battezziamo i neonati, e poi spiegavano il motivo, no? Corretto, niente da dire su cui noi battezziamo solamente coloro che credono, che hanno creduto, sempre così io sentivo dire, no? E infatti io sapevo, quando ancora non avevo ancora creduto, io sapevo che la prima cosa che avrei dovuto fare dopo aver creduto era quello di farmi battezzare, e quella era una cosa importantissima, perché poi davanti a tutti appunto tu venivi immerso nell'acqua, nel nome del Padre, Figlio dello Spirito Santo. Allora io, sapendo che dopo aver creduto dovevo essere battezzato, io ero sempre preso un po' da quella, come si dice, un po' da quella vergogna anche talvolta, no? Perché dicevo, ma io poi, quando poi farò vedere che mi faccio battezzare, lì poi tutti vedranno che ho creduto, insomma, mi facevo questo problema e dicevo no, è meglio ancora aspettare, perché poi dopo cosa diranno quelli che mi hanno conosciuto, e poi sono ancora troppo giovane, insomma facevo questi ragionamenti, però sapevo che il giorno che avrei creduto, allora lì non mi sarei dovuto più vergognare di niente e avrei dovuto con gioia, l'avrei fatto con gioia sicuramente, mi sarei fatto battezzare in acqua. E così infatti poi avvenne, no? Dopo che il Signore mi salvò in Inghilterra nell'agosto del 1983, appunto dopo un po' di tempo chiesi di essere battezzato e poi fui battezzato nel lago Maggiore, la sponda svizzera, diciamo nel 1984, e quel giorno poi fu battezzato in acqua anche mio fratello illuminato. Allora, E io naturalmente, ecco, sentivo sempre questa, diciamo, questa frase: noi non battezziamo i bambini perché i bambini non possono credere. E io dicevo giustamente, anche se ancora non conoscevo il Signore, dicevo, beh, è così, giustamente, uno per essere battezzato deve prima credere. Come fa un neonato a credere? Il riferimento era al battesimo della Chiesa Cattolica, o pedobattesimo. Poi io naturalmente andavo a scuola, quando c'era l'ora di religione, a me piaceva fare polemica, io ero un polemista ancora prima di convertirmi. Allora io ci tenevo a dire ai miei compagni di scuola: ma noi evangelici non battezziamo i bambini, noi battezziamo solo gli adulti, in mezzo a noi bisogna credere prima di essere battezzati. E naturalmente erano sempre lotte. Poi io però ci tenevo a dire la verità, perché sapevo che questa era la verità. Io ancora però non ero nato da Dio. E allora, praticamente, l'Evangelo, dunque, il battesimo va amministrato per totale immersione. Purtroppo, appunto, ripeto, in questi ultimi anni sto notando proprio che il battesimo da tante chiese evangeliche viene proprio preso alla leggera, leggerissima vorrei dire. Non alla leggera, ma è una cosa impressionante. Ma sia che lo fanno nella piscina, nella quale di culto, che poi sia quella che hanno fatto in muratura o quella che portano in plastica, che mettono su in plastica, che sia al mare, che sia al lago, che sia nel fiume, ma io vedo battesimi veramente fatti per parziale immersione, quando deve essere il battesimo per totale. Immersione. E su questo, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura è chiara: battezzare significa immergere. Seppellimento, ricordiamoci che è il seppellimento del vecchio uomo. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo, o comunque il seppellimento della morte di Cristo? Ricordate cosa dice Paolo? Dice: o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte. Quindi è importante il battesimo. È come appunto i morti quando si seppelliscono tutti interi. Non è che si lascia fuori il braccio, una gamba, un pezzo di testa, un orecchio. Insomma, si seppelliscono tutti. Il cadavere va seppellito tutto. E così anche il credente va immerso tutto completamente nell'acqua. Allora, voglio dirvi questo adesso. Io voglio fare questa premessa. Allora, prima di battezzare qualcuno, non è obbligatorio in quel momento, fargli una domanda. Non c'è scritto nella scrittura che bisogna fare una domanda specifica al battezzando. Naturalmente il battezzatore, lo chiamo così, colui che deve battezzare il credente, deve naturalmente essere sicuro, deve essere certo che chi lui sta per battezzare ha creduto nell'Evangelo. Va bene? Però, ribadisco, in quel momento preciso, diciamo in quegli attimi che precedono l'immersione, non è obbligatorio fare una domanda al credente. L'importante poi che abbia creduto, naturalmente, nell'Evangelo, e poi che il battezzatore lo battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per totale immersione. Però, a questo punto, sorge una domanda. Una domanda sulla domanda che viene fatta appunto quando ci sono i battesimi. E questa domanda è una domanda molto semplice: ma perché non viene chiesto al battezzando se ha creduto nell'Evangelo? Voi direte: ma come? No, non viene chiesto. Voi, almeno io ancora, non ho trovato chi, diciamo, chiede al battezzando se ha creduto nell'Evangelo. Ma ne ho viste di battesimi veramente tantissimi. Generalmente la domanda che viene fatta è hai accettato Gesù come tuo personale Salvatore e Signore? O come Signore della tua vita? Vuoi seguirlo? Vuoi servirlo tutti i giorni della tua vita? Poi adesso addirittura c'è un'altra domanda che hanno aggiunto. Ma tu questa decisione l'hai presa, diciamo, liberamente o qualcuno ti ha costretto? Credo che questa domanda venga fatta perché evidentemente hanno paura di essere accusati alcuni di essere una setta. Comunque sia, veniamo alla domanda che su cui mi preme, diciamo, riflettere. Allora, posto che non c'è una domanda da fare obbligatoriamente negli istanti prima, diciamo, al battezzando, ma dato che viene fatta, prendiamo atto che viene fatta, ma perché non viene chiesto al battezzando se ha creduto nell'Evangelo? Cioè, queste chiese, no? Diciamo, si riempiono la bocca sempre, queste chiese evangeliche, del fatto che loro non battezzano i bambini, giustamente, perché non possono credere. E infatti poi, naturalmente, dicono, noi battezziamo solamente le persone che hanno creduto. Ma allora, perché non chiedete al battezzando se ha creduto nell'Evangelo? Perché gli fate altre domande? Qui Gesù ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Siccome che è indispensabile credere per essere battezzati, beh, perché non gli fate questa domanda? Allora la domanda la faccio a voi, fratelli. Perché non viene fatta questa domanda? Allora io ci ho pensato tanto e avendo studiato un po', diciamo, le origini di queste denominazioni, avendo studiato la massoneria, avendo naturalmente dimostrato, perché ho scoperto che tutte queste denominazioni sono denominazioni che comunque sia sono sorte per l'aiuto della massoneria, e sapendo che la massoneria odia l'Evangelo, ho capito che questa domanda non viene fatta per compiacere alla massoneria. In qualche maniera questa domanda non viene fatta per compiacere la massoneria, perché dietro tutte le denominazioni evangeliche c'è la massoneria, sia dietro quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato, sia dietro quelle che non hanno fatto un'intesa con lo Stato e che hanno il riconoscimento giuridico, perché a quel livello non si arriva se non si hanno dei legami massonici. Allora, questa è la risposta, perché non vogliono chiedere al battezzando se ha creduto nell'Evangelo, perché l'Evangelo è il messaggio più odiato dalla massoneria. L'Evangelo. E non c'è dunque da meravigliarsi se l'Evangelo è sparito. È sparito sia dai pulpiti, ma anche appunto poi dai battesimi. Non viene predicato l'Evangelo. La stragrande maggioranza degli evangelici, non voglio dire tutti perché so che c'è qualche evangelico che sa cos'è l'Evangelo, la stragrande maggioranza degli evangelici non sanno cos'è sia l'Evangelo. Perché? Perché oramai queste denominazioni sono così pregne del pensiero massonico, sono così pregne di predicazioni massoniche, che non c'è spazio per l'Evangelo. Non sanno cosa sia l'Evangelo. È tutta un'opera, diciamo, della massoneria questa. La sparizione dell'Evangelo dalla predicazione e dai battesimi. Ma voi a chi l'attribuite la sparizione dell'Evangelo? Alla massoneria. Le denominazioni evangeliche sono piene di massoni, soprattutto tra i pastori. Capite? Quindi è del tutto normale che l'Evangelo sia stato fatto sparire. Allora, che cosa succede? Succede che non possono fare questa domanda. Perché? Perché loro praticamente hanno tutto l'interesse a non codificare l'Evangelo. Allora, cosa voglio dire? Queste denominazioni generalmente hanno codificato le dottrine. Per esempio, la dottrina sulla Trinità, crediamo nella Trinità e quindi poi ti dicono in che cosa credono, no? Crediamo nello Spirito Santo e poi ti dicono cosa credono, no? O per esempio riguardo agli ultimi eventi ti dicono crediamo che Gesù ritornerà, insomma i credi, no? Sto parlando dei vari credi di queste denominazioni, allora hanno codificato le varie dottrine, i loro punti dottrinali, però l'Evangelo non l'hanno codificato, come mai? Ma non dovrebbe essere il messaggio, eh? Ma non dovrebbe essere il messaggio veramente da mettere proprio in primo piano? Crediamo nell'Evangelo di Dio, che è, e poi spiegano cos'è l'Evangelo. No, no, non c'è questo. Allora cosa vi aspettate? Cosa vi aspettate poi il giorno del battesimo? Che questi qua, che non hanno voluto e non vogliono, non vogliono codificare l'Evangelo in base a quello che dice la Scrittura, non vogliono presentare l'Evangelo per quello che è, in base alla Scrittura. Voi cosa vi aspettate? Che chiedano al battezzando se ha creduto nell'Evangelo? Ma a loro non interessa. A loro non interessa, infatti, tanti di quelli che vengono battezzati oggi non hanno creduto nell'Evangelo. Voi direte, ma dicono di aver accettato Gesù come loro personale Salvatore e Signore. Quale Gesù? Quale Gesù? Cioè, la Scrittura dice che chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Non c'è scritto chi avrà accettato Gesù come suo personale Salvatore e Signore. Chi avrà creduto. Allora, se voi dite che prima di essere battezzati bisogna credere, dovete dire in che cosa bisogna credere. Non potete uscirvene, bisogna credere in Gesù. Ma pure i massoni credono in Gesù. In un altro Gesù, ma dicono di credere in Gesù. Per loro Gesù è un maestro di morale, un profeta, ma non è il Cristo. E no, noi vogliamo sapere che cosa voi intendete per l'Evangelo. Cos'è la buona novella per voi? Fatelo sapere. Trascrivetelo, mettete nero su bianco. Che cos'è l'Evangelo? Qual è l'Evangelo nel quale bisogna credere, per essere da voi battezzati in acqua? Qual è l'Evangelo? Lo vogliamo sapere, perché ci sono tanti Evangeli oggi, ma noi vogliamo sapere voi che cosa intendete per Evangelo. Allora vedete, la cosa è più seria di quello che possa sembrare, e se ci riflettete è serissima, perché questo denota tanto, capite? Guardate, ci sono massoni che dicono pubblicamente che hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore e Signore. Massoni che non credono che Gesù è il Cristo. Eppure dicono ho accettato Gesù come il mio personale Salvatore e Signore. Quale Gesù? Il Gesù gnostico della massoneria che è venuto a portare la gnosi. Quello è il Gesù dei massoni. Quello hanno accettato come loro personale Salvatore e Signore. Che poi i massoni per salvezza, i massoni evangelici, per salvezza non intendono la salvezza dal peccato, ma la salvezza dall'ignoranza, la salvezza dal non conoscere di essere Dio. Perché? Perché il Gesù gnostico di cui parla la massoneria è il Gesù che è venuto a far sapere ad alcuni suoi discepoli prediletti che loro sono Dio, e lo devono scoprire. In che maniera? Conoscendo se stessi. Perché il Gesù gnostico dice, conoscendo te stesso conoscerai di essere Dio. Allora, conoscendo di essere Dio, uscirai dall'ignoranza, dalle tenebre, perché loro, diciamo, per tenebre intendono queste. Le tenebre dell'ignoranza. Allora, il Gesù gnostico, quello che i massoni hanno accettato come loro personale salvatore, è quello praticamente che li ha salvati dall'ignoranza, perché loro praticamente dicono, vedete, Gesù mi ha portato la conoscenza di essere Dio. Quale Gesù? Il Gesù gnostico, che è un altro Gesù. Allora, perché vi dico, attenzione a questa domanda, hai accettato Gesù come tuo personale Salvatore e Signore? Perché anche i massoni possono rispondere di sì. Perché loro, diciamo, per Gesù intendono il Gesù gnostico di cui si parla nei loro ambienti, nei loro salotti, capite? Nei loro libri. Informatevi. C'è molta ignoranza nelle chiese, non hanno ancora capito quali siano le macchinazioni di Satana, non hanno ancora capito veramente che cosa sono riusciti a fare i massoni in tutti questi, in tutto questo lungo periodo. Sono riusciti a fare, accettare a tante chiese un altro Gesù. Un altro Gesù. E anche quando parlano della morte e della resurrezione di Gesù, state attenti perché i massoni non ci credono che la morte di Gesù fu una morte espiatoria. Non ci credono che Gesù è risuscitato corporalmente. State molto attenti. Usano il termine resurrezione, ma intendono un'altra cosa. Intendono un passare a un livello superiore. Loro non intendono per risurrezione quello che dice la Sacra Scrittura. Perché vi dico dunque, è di fondamentale importanza che venga chiesto, credi tu nell'Evangelo? Naturalmente puoi spiegare cos'è l'Evangelo, pubblicamente, proprio menzionare le parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Davanti a tutti, affinché colui che sta per essere battezzato possa dire, sì, io credo. Capite? È una bella testimonianza. Però capite bene che la cosa è molto seria, è molto sottile anche, perché molti non sanno che anche i massoni, i masso evangelici, parlano di Gesù, dicono di credere in Gesù. Ma è un Gesù gnostico, lo ripeto, che non ha niente a che fare con Gesù di Nazareth. È un Gesù che ha creato artificiosamente la massoneria per confondere le chiese. Capito? I massoni sono portatori di confusione, creatori e portatori di confusione. Allora per quello è importante la predicazione dell'Evangelo nelle comunità. È importantissima la predicazione dell'Evangelo. E poi è importantissimo appunto diciamo che si chieda a chi vuole farsi battezzare se ha creduto nell'Evangelo e spiegargli cos'è l'Evangelo naturalmente. Allora lì c'è la certezza assoluta che veramente chi viene battezzato ha creduto. Io lo ripeto, tanti evangelici sono stati battezzati in acqua ma non sono nati da Dio. Tanti, anche tra i pentecostali, perché non hanno creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, in quel giorno hanno detto, ho accettato Gesù come mio personale, Salvatore Signore, lo voglio servire tutti i giorni della mia vita. Ormai le conosco tutte queste dichiarazioni. Poi dopo, quando li incontri e che gli chiedi, ma tu credi nell'Evangelo, è questo l'Evangelo? Ma non saprei cosa dirti. Ma effettivamente a me non è che mi è stato detto cosa fosse l'Evangelo, a me mi è stato detto di accettare Gesù come mio personale Salvatore e Signore. Insomma, senti delle risposte veramente molto strane, ma questo perché? Perché non viene predicato l'Evangelo in queste comunità, non sanno cosa sia l'Evangelo. Quindi è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, l'Evangelo, conoscere l'Evangelo. Conoscere l'Evangelo. E naturalmente poi di fondamentale importanza la predicazione dell'Evangelo fatta con ogni franchezza. Ed è altrettanto importante per i tempi che corrono, nei tempi che ci troviamo, guardate, è importantissimo chiedere al battezzando se ha creduto nell'Evangelo. Ma non solamente se ha creduto nell'Evangelo, proprio chiedergli proprio se crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai 12, poi a più di 500 fratelli in una volta. E poi, appunto, come dice l'Apostolo Paolo, a Giacomo e poi a tutti gli Apostoli. Questo! E che ci vuole? E quanto dura una domanda del genere? Meno di un minuto. Ma fanno tante buffonerie in queste chiese. fanno tanti di quegli spettacoli, fanno perdere tanto di quel tempo, ma fanno le cose più vane spesso, anche il giorno del battesimo. Chissà perché manca proprio sempre questa domanda, anche quando moltiplicano le domande, perché ho notato in alcuni battesimi ultimamente hanno moltiplicato le domande, oh, ma vai a vedere se chiedono quello che vi ho detto, credi tu che Gesù, non lo chiedono, è più forte di loro, ma perché questo? Perché nel momento in cui codificano l'Evangelo e dicono cos'è l'Evangelo, poi tutti coloro che non hanno creduto nell'Evangelo si sentirebbero condannati. Perché poi bisognerebbe dire anche che chi non avrà creduto sarà condannato. Capite? Si crea una situazione imbarazzante per queste, si creerebbe una situazione imbarazzante per queste chiese, perché poi ci sarebbero i condannati, coloro che appunto rifiutano di credere nell'Evangelo. Capite? E quindi si creerebbe, diciamo, si creerebbero divisioni, si creerebbero, insomma, lotte di tutti i generi. Allora, per evitare, e poi naturalmente il mondo comincerebbe a dire, ah, ma voi discriminate gli increduli, ah, voi non battezzate chi la pensa diversamente da voi, ah, voi per forza di cose uno deve credere in questo messaggio per essere battezzato, insomma, hanno paura poi di essere etichettati come settari, integralisti, fondamentalisti e così via. Ma queste cose le conosco, ormai conosco l'animo di questi qua che hanno paura veramente della loro ombra. Questa gente c'ha paura della loro ombra, questi qua c'hanno paura, vivono nella paura questi qua. Quando io penso al coraggio degli apostoli e poi vedo questi paurosi, che per piacere a Cesare hanno sostituito l'Evangelo con un altro Evangelo, che cercano di piacere allo Stato anziché al Signore, infatti sono chiese di Stato, e le chiese di Stato si rifiutano di predicare l'Evangelo. Perché la predicazione dell'Evangelo crea una divisione e le chiese di Stato non possono creare divisioni nella società. Lo sapete questo? Devono cercare in tutte le maniere di creare unione con tutti, non solamente quindi con i mariani, ma anche con i buddisti e con i musulmani, con gli ebrei e così via. Sì, l'unione nella diversità, sì, quella di cui parlano i massoni. Capite? E allora niente Evangelo, facciamo sparire l'Evangelo, hanno detto, perché l'Evangelo veramente ci crea problemi, un sacco di problemi. Poi dobbiamo dire pure che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, e quando mai? Adesso cominciamo a dire che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, cosa gli andiamo a dire ai musulmani con i quali dobbiamo collaborare? Cosa gli andiamo a dire ai mariani? Cosa gli andiamo a dire ai buddisti? Che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? No, cambiamo il messaggio. Così possiamo collaborare con loro, per migliorare la società, per migliorare la condizione della nostra città, del nostro paese. Questi sono i discorsi che fanno, questi malfattori, ma questi non sono servitori del Signore Gesù, ma questi sono falsi ministri di Cristo, che rifiutano l'Evangelo, capite? E allora, la prossima volta che assisterete a un battesimo, accertatevi di quello che verrà chiesto e sentirete per l'ennesima volta, hai accettato Gesù come tuo personale, però l'Evangelo, proprio, ma nemmeno la parola viene menzionata. Ma come? Gesù ha detto, chi avrà creduto quindi nell'Evangelo e sarà stato battezzato sarà salvato. E poi si presentano come evangelici. Evangelici che ci hanno paura persino di menzionare la parola Evangelo. Ma ci rendiamo conto? Non è che questi qua non annunciano l'Evangelo. Cioè, ma proprio manco la parola oramai quasi menzionano. C'hanno una paura tremenda. Sta parola Evangelo mette paura. Mette una paura tremenda. Certo, mette paura perché? Perché chi predica l'Evangelo si attira l'ira della massoneria. E questi qua, con la massoneria, ci vogliono camminare a braccetto, e ci camminano infatti a braccetto, capite? Quindi ho voluto, diciamo, fare questa mia predicazione affinché rimanga, questa mia riflessione, ma anche questa mia riprensione e confutazione. perché veramente sono stanco di vedere tante anime veramente ingannate. Sono stanco veramente di vedere queste chiese filomassoniche, queste chiese veramente in mano alla massoneria, veramente ingannare le anime in tutte le maniere. E quindi ho voluto fare questa predicazione per farvi riflettere, perché io so che voi siete persone intelligenti, persone che riflettete, che investigate le scritture, chiamate il Signore, che volete piacergli. E quindi ritengo che, diciamo, questa mia riflessione vi porterà a capire tante cose, veramente tante cose. Ah, noi non battezziamo i bambini perché i bambini non possono credere. Allora, se battezzate gli adulti perché dite che possono credere, ma volete spiegare in che cosa devono credere questi adulti per essere battezzati? Ma lo volete dire? E non limitatevi a dire devono credere in Gesù, no, no. In che cosa? Ma questo Evangelo, di cui voi ogni tanto menzionate la parola, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ditelo! Ditelo! Beh, così almeno ci orientiamo. Così almeno... Ma io già lo so che cos'è l'Evangelo per voi. Lo so perché vi ho studiati. Il vostro Evangelo, infatti, è un altro Evangelo. Proprio un altro Evangelo. Ecco perché di tante cose. Quindi, fratelli del Signore, ascoltate, voi che magari siete ancora in queste denominazioni, se l'Evangelo che viene predicato non è quello che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, sapete quello che dovete fare? È uscire, separarvi immediatamente da queste chiese, ma proprio immediatamente, non spendete in vano altro tempo in queste comunità. A queste comunità non interessa l'Evangelo. Spero che lo abbiate capito. E infatti non lo difendono. Non lo difendono. Loro difendono i loro interessi personali, i loro diritti che hanno acquisito nel tempo e così via, agli occhi dello Stato, ma a loro dell'Evangelo non interessa proprio niente. Anche perché ti vengono a dire noi non facciamo polemica. A polemica però la fanno. Non per difendere l'Evangelo che proprio a loro non gli interessa, ma per difendere, diciamo, i soldi. Quello sì. Quando si tratta di difendere i propri soldi, queste denominazioni proprio sono in prima fila. In prima fila i loro interessi, i loro locali di culto, le loro cattedrali, i loro templi. Subito si precipitano. Subito si precipitano, come fanno sentire la loro voce forte e chiara, in difesa dei loro cosiddetti diritti. Ma quando l'Evangelo viene attaccato, a questi non gli interessa niente. Ma proprio niente! Non lo predicano. Non lo predicano e non lo difendono. E perché non lo predicano? Perché non ci credono. Io ho creduto, perciò ho parlato. Ecco perché annunzio l'Evangelo. Io ci ho creduto nell'Evangelo. Ma chi non ci crede non lo annunzia. Non lo annunzia. È inutile che mi venite a dire, ma abbiamo parlato dell'amore di Dio citando Giovanni 3,16. Guardate che Giovanni 3,16 non è l'Evangelo. Come non è l'Evangelo Romani 5.1, come non è l'Evangelo Romani 3.23, questi versetti io li ho imparati a memoria, proprio subito dopo che mi sono convertito, non sono l'Evangelo. Quindi spero nel Signore, anzi ho fiducia nel Signore, che questa mia predicazione vi servirà affinché veramente siano turate le bocche di coloro che vanno cianciando contro la verità che è in Cristo Gesù. Siate avveduti, fratelli nel Signore, siate avveduti, perché i tempi sono malvagi. Le denominazioni sono tutte in mano alla massoneria. La massoneria ha fatto sparire l'Evangelo. L'Evangelo, il grande assente, sì, è proprio l'Evangelo. Ma noi, con l'aiuto che viene da Dio, terremo alta la verità, la parola di verità la terremo alta, fino a che veramente vivremo su questa terra terremo alta la parola di verità, che è l'Evangelo della gloria del Beato e Dio, l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. quindi che l'Evangelo sia predicato con franchezza, che coloro che credono nell'Evangelo siano battezzati per totale immersione nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e che l'Evangelo sia difeso, perché l'Evangelo è la parola di Dio ed è sotto attacco, è sotto attacco, ma noi lo difenderemo con la grazia veramente di Dio, perché senza la sua grazia non possiamo fare niente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.